offre veramente tantissimo ai bambini della nostra città. Ci sono 70 titoli, sono tantissimi. La novità è che tutte queste offerte che facciamo vengono da tante parti del mondo, ma non è una novità molto relativa. La novità vera è che riusciamo a continuare a fare questo. Sono 40 anni che si fa stagione di teatro per i bambini in questa città, con la baracca, e quindi è sempre una novità quando l'anno dopo continui a farlo, è sempre una sorpresa. Ma più che parlare di novità, mi interessa parlare di quello che è una costanza, ovvero quello di cercare di portare un'arte, portare l'arte, la formazione, la scoperta ai bambini sempre di più, a tutti i bambini di tutte le età e di tutte le estrazioni sociali. Due spettacoli imperdibili: uno, a mio parere, è quello di Frollo, interpretato da Marco Bagliani, che è uno dei più bravi narratori per ragazzi e non solo in Italia. È storia del teatro, veramente, ti porta ovunque stando seduto su una sedia, questo assolutamente lo devono vedere grandi e piccini indistintamente. Un'altra novità è una nostra produzione che si chiama Quattro Stagioni, è uno spettacolo che faremo io, che sono Bruno Cappagli, insieme a Silvia Traversi, che è una coreografa, e racconteremo la storia di quattro personaggi che sono quelle quattro stagioni, ma di fatto si racconta della relazione tra un individuo e gli altri, l'entrare nel mondo di uno e cercare di coinviverci o scontrarsi o cercarlo di capire, eccetera. È uno dei nostri fiori all'occhiello di quello che sta accadendo in questo teatro e non solo. Si chiama Mapping, è un progetto europeo che avrà la durata di 4 anni, è di fatto la continuazione di un grosso progetto legato ai 0-6 anni che coinvolge tutto il mondo. In questo teatro stiamo vedendo passare compagnie che vengono da ovunque, artisti che vengono da tutte le parti del mondo. È praticamente una conferma che questo progetto che stiamo portando avanti da tempo ha un senso soprattutto europeo, perché ha creato una rete di artisti che si occupano della primissima infanzia. Di questo siamo molto orgogliosi. La scorsa stagione è un passaggio di testimone. È avvenuto una continuità? Cosa succederà? Rispetto alla stagione scorsa possiamo già dire che sono nate delle collaborazioni. Appunto si stava parlando del festival di visioni di teatro, di Small Sides. Questo è un festival che ci ha permesso di incontrare, e nei vari giri che facciamo nel mondo abbiamo incontrato tanta gente. Quest'anno di fatto si realizzeranno diverse coproduzioni o collaborazioni o percorsi di ricerca comuni. Quindi ci saranno altri percorsi che appunto gettano le radici ma guardano sempre al di fuori. Assolutamente, questo è uno dei tentativi che facciamo, non solo all'estero dove stiamo lavorando molto, ma l'intento è anche quello di aprire sempre di più anche in città, quindi creare sempre più relazioni anche all'interno con le istituzioni della città.